detto. Palermo, Agrigento, passa. Aragona, Caldari. Acquaviva, Castel Terni. Camarata, San Giovanni, Gemini. Bagheria. Termini, Nerese. Rocca Palumba, Alia. Agrigento. Bagheria. Palermo Centrale. Agrigento Bassa. Thank you.